Nel sistema giudiziario italiano, i reati a sfondo finanziario non sono considerati particolarmente esecrabili. Nonostante questo, in via Monterosa 91 opera l'unità vittime Serpente Corallo, una squadra di reporter specializzati che indagano su questi crimini perversi. Ecco le loro storie. Il Serpente Corallo di Stefano Elli, Marco Lo Conte e Mauro Meazza. Ma quanto sei bello, Serpente Corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, Serpente Corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. È ripartito, riparte, ci siamo. È il Serpente Corallo, edizione 2020. E da Mauro Meazza un cordiale, cordialissimo benvenuto. Marco Lo Conte, ci sei? Assolutamente sì. Ciao Mauro, bentornati a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. E saluto anche Stefano Elli. Stefano, dove sei Stefano? Ecco, forse Stefano non c'è, ma sai perché? Marco, in conference call. Sì, no, ma che siamo tutti con questa tecnologia. Tu dove sei? Dove sei fisicamente? Non lo so neanche più. No, io sono negli studi della radio. Sono in un posto dove mi ritrovo. Ma tu invece dove sei? A Vanuatu? Dove sei finito? Vanuatu, sì. Vanuatu. Io villeggio a Vanuatu. Ecco, va bene. Allora, niente, dobbiamo parlare di cose molto serie, come sanno i nostri ascoltatori. Ma Stefano dov'è? Dov'è Stefano? E non lo so, adesso, guarda. Proviamo a chiedere. Scusa, aspetta, non abbiamo uno di quei sistemi, di quelle cose che tu parli e ti trova... Guarda, abbiamo quest'anno, tra le tante novità, me la fai anticipare subito, abbiamo Alexo, l'assistente connesso. Noi gli facciamo le domande e lui risponde in diretta. Allora, Alexo, ascoltami, dov'è Stefano Elli? E sei sicuro di voler sapere la risposta? Ecco, non va bene. Non so se ha capito la domanda, Alexo. Bene, senti, non facciamo. Diamo un attimo di tempo che magari si sistema lui. Sì, sai che sì, si deve assestare. Si deve settare. Settare. Adesso spengo e riaccendo. Okay. Allora, questa è una trasmissione semiseria. Semiseria perché noi non siamo tanto seri, ma i nostri ospiti spesso lo sono, che vi parla di truffe e vuole anche fare un po' di, dico il parolone, dai, attenzione, sparala. Educazione finanziaria. Esatto. Insomma, ci accontenteremo di essere tutti un pochino più preparati, meno vulnerabili davanti alle truffe, o noi per primi naturalmente. Ma noi chi siamo? Noi siamo i Chapter 11. Ecco. Alexo, come si scrive Chapter 11, Alexo? Come si scrive Chapter 11? No, sono io perché voglio sapere. È la risposta che noi vogliamo sapere, non la domanda. Allora, Chapter 11 si scrive C-I-A-P-P-T-E-R e 11 con la I. È il nome più difficile del mondo per un gruppo musicale, perché noi siamo un gruppo musicale, anzi musical teatrale. Pop tributario, pop economico tributario. Con venature giuslavoristiche durante le puntate del Serpente Corallo vi faremo anche sentire dei nostri brani, proprio a tema con la truffa di cui ci stiamo occupando, perché abbiamo tanti brani che parlano di tanti rovesci, infortuni, incidenti dal punto di vista economico, e purtroppo ce n'è sempre da dire. Oh, Mauro, chi ci ascolta probabilmente oggi è in auto, si sta spostando perché le meritate ferie, si dice così, no? Sì. Le meritate ferie hanno attratto un po' di persone, anche quest'anno nonostante tutto. E allora di che cosa potremmo parlare in questa puntata se non di polizze auto, polizze responsabilità civile per auto finte, cioè truffe. Come finte? Finte, sono delle truffe. Guarda, io ti ho portato un ospite che già conosci perché è stato con noi nella passata edizione, edizione 2019 del Serpente Corallo, e già lui ci aveva avvisato, aveva detto state attenti, santa pazienza, guardate che c'è un sacco di truffatori in giro che vi propongono delle polizze auto scontatissime. Sono finte, non avete la macchina assicurata. No. Guarda, te lo presento subito. Bentornato al Serpente Corallo a Fabrizio Premuti, che è presidente di Consumer con la K, Consumer Italia. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, Fabrizio, entriamo subito nel tema. C'è un preoccupante aumento di queste polizze finte RC auto o è solo un'impressione mia? A me pareva che l'anno scorso fosse ancora un fenomeno così, appena appena agli inizi. Invece adesso ci sono state reti di falsi broker che avevano costruito siti, 44 persone in una delle reti sgominate a giugno. Insomma, mi pare che stia diventando un'emergenza vera questa. Ma è assolutamente un'emergenza, perché siamo passati da una produzione artigianale di falsi siti ad una produzione industriale. Voi pensate che IVAS ne ha scoperti non qualche decina, ma abbiamo superato i 300 siti. Questo sta a significare che c'è un'offerta di false polizze su internet che quasi è pari a quella delle polizze reali, perché se andiamo a cercare un comparatore vero ne troviamo sì e no 7-8. Se andiamo a trovare i siti che vendono polizze ne troviamo centinaia. Allora, il problema vero è sì, che non sempre riusciamo a bloccarli nell'immediatezza, cioè IVAS li segnala anche alla polizia postale, ma purtroppo poi il decreto di blocco, di oscuramento del sito arriva con decine di giorni di ritardo e quindi continuano ancora a caderci altri italiani. Allora, innanzitutto IVAS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, controllate sempre sul sito se l'operatore a cui vi state rivolgendo è registrato lì o viceversa, sempre nel sito IVAS, è uno di quelli che è stato dichiarato fuori legge perché è una truffa. www.ivass.it, sono due le S, punto it. Questo, ecco, per Mauro, dimmi Marco. Vogliamo aggiungere, giusto per completezza, perché magari chi ci sta ascoltando in auto, c'è anche un numero verde, qui è possibile chiamare l'IVAS, il Contact Center Consumatori dell'IVAS, che risponde al numero verde 800 48 6661. Da lunedì al venerdì la mattina dalle 8:30 alle 14:30. Lo ripeto, il numero 800 48 66 61. È utile fare un controllino perché prima non si sa mai. Prima di pagare. Esatto. Allora, dobbiamo fermarci un attimo perché, lo dico anche con un certo orgoglio a Fabrizio Premuti, presidente di Consumer Italia, adesso facciamo sentire una canzone dei Chapter 11, anzi una prima parte di una canzone dei Chapter 11, che è proprio dedicata a persone che si spostano abitualmente in auto. La canzone si chiama In Itinere e prego la regia di mandarne in onda il primo estratto. Ma che idea fenomenale, andare ad abitare in quel casale, in un paesino tipico rurale, con solo un bar e la chiesa parrocchiale. Giocano i bimbi sulla provinciale, il cane al giusto spazio d'animale. Amore, ma il dettaglio davvero eccezionale è che io sto 2 ore al giorno in tangenziale. Ogni mattina finisci sotto torchio, tra i camion ungheresi col rimorchio. E cosa avranno mai da consegnare? Che stanno sempre sulla tangenziale. Poi al ritorno che divertimento, vicini vicini nell'incolonnamento. E appena si rallenta chiacchieriamo. Ingegnere, come va la famiglia? Tutto bene? Con gli ungheresi poi fraternizziamo. Oh, tra le tante novità del Serpente Corallo 2020, quest'anno c'è un contenuto extra. Beh, anche noi ci siamo dati il contenuto extra come tante altre trasmissioni di successo. Un contenuto che trovate sul sito di Radio 24, www.radio24.it. È una rubrica che ricorda che la storia è piena di serpentesse corallo. L'autrice è Lia Celi, che ne scrive nel suo libro che è intitolato Quella sporca donnina. Da questo libro lei ha tratto per noi alcuni episodi che abbiamo intitolato Madre Corallo e le sue figlie. Trovate tutto su www.radio24.it nella pagina del Serpente Corallo. E tutto ciò premesso, Traff. Il serpente corallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Prima puntata del 2020 del Serpente Corallo, la trasmissione semiseria, semi ma seria, che vi parla di truffe, di rovesci finanziari, perché c'è sempre un serpente corallo, c'è un animaletto grazioso ma letale che vi vuole sottrarre il denaro. Ad esempio, adesso stiamo parlando della sottrazione di denaro che può avvenire con false, ripeto, false, forse non sono stato chiaro, false polizze RC auto. Ne stiamo parlando con Fabrizio Premuti, presidente di Consumer Italia, che ci stava dicendo nella prima parte è diventata un'epidemia. Ci sono centinaia di questi siti, oltretutto mi pare di capire anche fatti abbastanza bene a questo punto, che propongono polizze super scontate. Peccato che non siano polizze, siano semplicemente degli, come possiamo dire, acchiappa truffati, degli siti per acchiappare la gente in null'altro. Sì, assolutamente, sono, come dire, delle istigazioni a contrarre qualcosa che non esiste, di per sé già il contratto assicurativo, il contratto aleatorio, ma in questo caso è immaginario, e noi nell'immaginario siamo portati a credere che siamo in presenza effettivamente di un intermediario d'assicurazioni o di una compagnia d'assicurazioni, talmente sono fatti bene questi siti. Andiamo a verificare quelli che sono i dati che mettiamo per vedere qual è la nostra tariffa e vediamo che risparmiamo 200-300 euro da quello che normalmente paghiamo già ogni 6 mesi, ogni anno per la nostra polizza RC auto. È chiaro che davanti al risparmio l'80% di noi un pensierino ce lo fa, e di questo 80% purtroppo la metà a volte contrae il contratto assicurativo finto, falso, lo ripetiamo falso perché tanto falso è, e in quel caso vedremo arrivare una bella mail dove all'interno c'è questo contratto finto, ma sembrerà vero anche quello in tutto e per tutto, e ci verranno date le indicazioni per il pagamento. Allora attenzione che ultimamente molti pagamenti, e questo l'abbiamo verificato da persone che si sono presentate negli sportelli da voi a Consumer Italia, Consumer con la K, lo ripetiamo. Con la K. Aspetta Fabrizio, Alexo l'assistente connexo, hai capito che Consumer si scrive con la K, Alexo? Domenica 2 agosto si festeggia Sant'Eusebio di Vercelli. Scusa, è una l'intelligenza artificiale, no, qui diciamo che artificiale. Abbiamo solo l'artificiale. Scusaci Fabrizio, allora... Ma è un'intelligenza autoapprendente, se glielo ripetiamo quello impara. No, speriamo, non lo so, ma... è molto meno affidabile di questi siti farlocchi invece di cui ci stavi dicendo. E siamo arrivati al momento cruciale, il pagamento. Allora, ci siamo cascati, abbiamo cliccato, siamo andati sul sito del truffatore, abbiamo creduto di sottoscrivere, che stiamo per sottoscrivere una polizza RC auto particolarmente scontata, questo dovrebbe farci riflettere, e il sito ci dice a questo punto, o quello che riceviamo per email che sembra una polizza ma non lo è, ci dice di pagare come, perché questo è determinante, ci stavi spiegando. Allora, nella maggior parte dei casi noi abbiamo rilevato che il pagamento viene fatto su una PostePay intestata ad una persona fisica. Ecco, questo è assurdo, perché in assicurazioni pagamenti su PostePay non esistono, così come non esiste fare il pagamento a persone fisiche. Il pagamento si fa alla compagnia d'assicurazioni o alla società dell'intermediario, ma mai su una PostePay. È chiaro che in quel momento il denaro che viene portato sulla PostePay da lì verrà riversato immediatamente su un altro conto e i nostri soldi sono spariti, così come non è mai esistita quella polizza d'assicurazione. Allora oggi siamo tutti quanti in viaggio per le vacanze, immaginiamo se il nostro amico viaggiatore dovesse avere, e facciamo le corna, un piccolo incidente stradale. Allora lì lui diventerebbe non soltanto irresponsabile, se ne è responsabile, ma è anche quello che in ultima istanza dovrà pagare i danni che ha causato grazie a questa polizza finta, perché non copre assolutamente nulla. e sarebbe un risveglio bruttissimo e probabilmente ci saremmo rovinati le vacanze. Ci sono dei consigli proprio che IVAS e anche voi come Consumer Italia date. Marco, tu hai addirittura una serie di consigli, questo era uno ovviamente, attenzione a chi state pagando, perché se pagate una persona fisica non va bene. Ma ci certo. Sono altri consigli dell'IVAS, mi pare. Beh, io prima citavo il contact center, il numero verde, ma chiaramente l'IVAS invita a controllare sul proprio sito l'iscrizione delle imprese assicurative ammesse, abilitate ad operare in Italia. Se la compagnia che vi manda questo, cioè se non c'è la compagnia che vi manda il tagliando sul sito dell'IVAS, o se per esempio il simbolo è un po' differente per colore, state attenti, dovete controllare il registro unico degli intermediari assicurativi, il RUI. Ecco, questo è fondamentale, è giusto un controllino che bisogna fare proprio per evitare brutte sorprese, perché purtroppo a volte c'è il truffatore, però la nostra vulnerabilità o la nostra voglia di trovare una scorciatoia pagando poco, in realtà gli offre il destro, diciamo così, e dobbiamo evitare, come dire, di coltivare il serpente corallo che è in noi, perché è molto, anche questo è un questo problema. È molto saggio. Siamo arrivati al momento in cui dovremo far sentire la nostra seconda parte della canzone in itinere, sullo spostamento in itinere, canzone dei Chapter 11. Vogliamo dire che queste canzoni che ascoltate le trovate anche su Spotify, su tutte le piattaforme, quindi potete prelevarle da lì. E voglio però prima ringraziare Fabrizio Premuti, che è presidente di Consumer Italia, per essere tornato ospite del Serpente Corallo anche nell'edizione 2020. Speriamo, come dire, di sentirci per altre cose nel 2021, Premuti. Ma come no, speriamo soprattutto di vederci, perché la prossima magari la faccio lì con voi. Ma molto volentieri. In itinere, prego. La tangenziale è un concetto simile a circolare, come certi sogni quando mangi male. Pensa che a Roma, per farsi un po' notare, l'hanno chiamata raccordo anulare. E qui accelera il ritmo, la vettura si va, si va, si va. In tangenziale fai dei bei ricordi, quando stringono per tagliare l'erba ai bordi. Io penso ai sapientoni del passato, lavoro han pronosticato. Con il computer e con internet ognuno starà in casa a far da sé. Ma se c'era sto proposito geniale, che ci facciamo tutti in tangenziale? C'è il treno, è vero, sì, però è banale, e la corriera è paleoindustriale. Il pendolare vuol la tangenziale, e il naufragarli è dolce in questo mare. Oh, e così abbiamo ascoltato la seconda parte di In Itinere, la nostra canzone, la canzone dei Chapter 11, che è dedicata appunto agli spostamenti, a coloro che sono anche un po' condannati agli spostamenti. Sai cosa pensavo, Marco? Mi è venuta un'idea. Sentiamo un professionista della truffa. Dai, professionista, dai, sì, della, sì, truffa, sì, sì. E gli chiediamo se, non so, anche lui vende polizze RC auto finte, finte. Ma scusa, stai parlando del mitico Tarcisio Carbonin? Ah, ecco, bravo, che non mi ricordo mai il cognome. Lo chiamiamo, per favore? Lo chiamiamo? Pronto? Pronto? Pronto? Parla. Pronto? No, chi parla? Noi siamo i Chapter 11, qui da Radio 24. I Chapter 11 da Radio 24. Siamo un gruppo musical teatrale che però fa anche una trasmissione radiofonica semiseria. Si ricorda di noi? Ci chiamava sempre l'anno scorso per disturbare le trasmissioni, adesso disturbiamo noi. Ma... mi fate parlare? Sì. Ecco, parlate. No, parli lei. Chi parla innanzitutto, si qualifichi? Sono Carboni Tarcisio. Carboni Tarcisio, professione? Truffatore. Oh, eccoli. Benissimo, di questo volevamo essere certi. Senta, era per un sondaggio, ma lei che è un professionista della truffa, perché lei è un professionista della truffa. Beh, insomma... 45 anni di esperienza, insomma, bel curriculum. Lei vende anche finte polizze RC auto, finte polizze responsabilità civile per auto? Ma sta scherzando? No, non volevo offenderla, perché cioè, se non le vende basta che dica di no, è una cosa che una curiosità. Ma roba grossolana, roba da delinquenti comuni. Ma guardi che la fanno in tanti, però è diventata una cosa di massa, forse anche lei dovrebbe nella sua attività, insomma, vedere se può diversificare. Insomma, direi quanto costa una polizza, vero? Cioè lei dice se devo truffare io truffo per... quante polizze finte devo fare per arrivare a fare quello che faccio con un contract for difference? Con un? Contract for difference. Ma che roba è? Un contratto per differenza, tanto per essere parlare in italiano. Sai, giusto? Che questo qui l'ho letto... Almeno me devo vendere 2000 polizze. 2000 polizze a 250 euro per fare tutto quello che faccio con un cavolo di coso di contraffordifere. Certo, no, ma la capiamo, ci scusi, non volevamo offenderla, allora noi ci scusiamo per averla disturbata. Le faccio un'ultima domanda, scusi, lei non è che sa dov'è Stefano Elli per caso, perché oggi non è introvabile? Ma io sono piuttosto lontano, io non so come faccio a saperlo, c'ho mica il geolocalizzatore in Munio. No, magari siccome... ho mica scaricato io quella roba lì, che poi mi prendono. Ma no, allora, siccome Stefano Elli è uno che spesso è sulle tracce di truffatori, lei essendo, come dire, un truffatore reo confesso, pensavamo che magari fosse a vista, ecco, niente. Ci scusi se l'abbiamo disturbata, noi torniamo al nostro programma e lei alla sua barca a vela. Le auguriamo un'ottima vacanza, Carbonin. Buon vento, Carbonin, buon vento. Sì, a spese altrui, naturalmente. Il serpente corallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ci risiamo per il nostro terzo blocco che ha, caro Marco, una grandissima novità. La vuoi sapere? Sono molto in ansia, anche perché qui io sono a distanza, cioè questo è il primo programma, forse i nostri ascoltatori non lo sanno, ma è il primo programma in conference call. Tu dove sei io? No, io sono al mio posto qui al lavoro, in via Monterosa 91, sì. Qui al caldo, anzi va bene, l'aria condizionata, sì. Però col lockdown, insomma, tutto quanto. Io sono rimasto locked down alle Vanuatu. Vabbè, è meglio che, insomma, Cinisello Balsamo, verrebbe da dire, esatto. O forse no, non saprei. Vabbè, comunque, dovunque tu sia... Che succede ora? Allora, spalanca bene gli orecchi, perché? Perché abbiamo una nuova rubrica che si chiama Fraudologia, abbiamo preso un fraudologo professionista, cioè proprio uno che insegna fraudologia, cioè storia delle frodi. Lui va piluccando qua e là negli anni passati per raccontare storie di serpenti corallo quando ancora i Chapter 11, che poi saremmo noi naturalmente, esatto. I Chapter 11 non avevano individuato la categoria del serpente corallo, animaletto appunto simbolo di tutte le truffe. Ebbene, questo fraudologo, di cui posso dire solo il nome e il cognome ma non svelare la reale identità, che è Alessandro Marzomagno, ci ha donato alcune sue lezioni che lui svolge in giro per il mondo, appunto per spiegare come e quanto i serpenti corallo si annidino dal tempo immemore nell'umanità. E c'è sempre qualcuno, insomma, c'è sempre stato qualcuno, caro Marco, che voleva fregarti i soldi. Guarda un po' che caso. Allora, se la regia è d'accordo, ma se non è d'accordo non fa nulla. Fa lo stesso. Molto bene, allora mi piace questo decisionismo tuo. Allora, andiamo ad ascoltare la prima parte della nostra lezione di fraudologia odierna, prima lezione di fraudologia. E poi, naturalmente, abbiamo in sospeso con voi, cari ascoltatori, anche la ultima parte della nostra canzone In Itinere. Ma adesso fraudologia. Fraudologia. Il genio Ecco quel di cui c'è bisogno per architettare una truffa, il genio. E voi, studenti svogliati e dalla tenue fantasia, arrivereste mai a inventarvi uno stato per venderne i bond? No, certo che no. Mica siete Gregor McGregor voi. Magari non l'avete neanche mai sentito nominare, questo genio assoluto che Totò Truffa in confronto è un dilettante. Nel 1821 ha fatto impazzire la borsa di Londra vendendo bond di un esistente stato di Poyais, inventato da lui e del quale aveva pubblicato pure una guida turistica. In poco tempo ha raccolto 200.000 sterline, una cifra che costituirebbe un discreto malloppo pure oggi, ma ai tempi equivaleva più o meno ai fantastiliardi di Paperon de Paperoni. Gregor McGregor era scozzese, nato nel 1786 a Edimburgo e apparteneva al clan dei McGregor, quello del celeberrimo Rob Roy McGregor. Partecipa alle guerre napoleoniche in Spagna da ufficiale di Sua Maestà Britannica e intanto si sposa con la figlia di un ammiraglio che gli porta una ricca dote. Già sotto le armi dimostra una certa passione per i pennacchi e le alte uniformi, ma viene cacciato. Anche se non si sa di cosa si trattasse, è probabile che non fossero motivi particolarmente onorevoli. Da civile si orna di patacche e di titoli millantati. A un certo punto racconta di essere stato nominato capo del clan McGregor e gira con una carrozza appariscente e riesce a farsi stimare dall'intera società londinese. La moglie Maria muore all'improvviso nel 1811 e Gregor perde la sua principale fonte di sostentamento. A questo punto deve decidere cosa fare. Sposarsi subito con un'altra ricca ereditiera sarebbe compromettente, tornare in Scozia alle terre a vite proprio non se ne parla. E siccome è scoppiata una rivolta antispagnola in Venezuela, McGregor decide di valcare l'Atlantico e andare a combattere contro gli alleati di un tempo. Comunque, lo scozzese partecipa a vari episodi militari in Venezuela e combatte a fianco del Libertador, Simón Bolívar, arrivando al grado di generale dell'esercito venezuelano. Ora attenzione, aspiranti serpenti corallo, perché a questo punto arriva la svolta, il colpo di coda. Gregor McGregor torna a Londra nel 1820, proclamandosi cacicco di Poyais. Un territorio che si troverebbe più o meno nell'attuale Honduras e che lo scozzese descrive come il regno del latte e del miele, popolato da coloni britannici e dalle terre fertilissime, pronto a rendere ricco chiunque decida di andarci a vivere. In breve, McGregor e la sua bellissima esotica moglie diventano gli idoli della buona società, vengono invitati a cene e balli dove lo scozzese intrattiene gli ospiti con i mirabolanti racconti delle sue avventure e della ricchezza del mitico regno di Poyais. Oh, questa era la prima parte della nostra lezione di fraudologia. Ti è piaciuta, Marco? Ma guarda, è molto molto interessante. Tu lo sai che io sono un estimatore delle truffe dal punto di vista della psicologia che scatta nella mente del truffato, anche un po' del truffatore. Vorremmo farvi sentire anche la seconda parte, ma prima abbiamo un debito con tutti voi ascoltatori, ma soprattutto con voi ascoltatrici. Rivolgiamoci così deferenti alla regia, se cortesemente ci mette l'ultima parte di In Itinere. Con tanto tempo da buttare via, con quel mio amico lì dall'Ungheria. Basme, che italiano struzzo. Mi sboccia anche un istinto criminale. Mentre ti penso lì nel tuo casale e immagino di averti qui vicina, io e te, due cuori e una berlina. E al primo ingorgo andare ad accostare e lasciarti lì, lì. Al centro commerciale? No. Ai mercatini di Natale? No. Dalle amiche a parlar male? No. Lì, sulla tangenziale. E così avete scoperto come finisce la canzone di Chapter 11 In Itinere. E poi c'è la parola quella in ungherese che avete sentito, che dovete andare a tradurvela con Google Traduttore. Bosmeg, scritto Basmeg. Adesso aspetta che ce lo segniamo. Potete anche, come vi dicevamo, sentire e andare a cercarvi le canzoni dei Chapter 11. Questa si chiama In Itinere ed è tratta dal nostro prossimo CD, che si chiama, Marco? Il nostro prossimo CD. Che si chiama? Il nostro prossimo CD si chiama? Il nostro prossimo CD. Cioè il nostro prossimo CD si chiama Il nostro prossimo CD. Esattamente. Basta, mi sono confuso. Possiamo mandare per favore la seconda parte della lezione di fraudologia odierna? Grazie, tiratemi fuori da questo pasticcio. Fraudologia. Bentornati cari studenti. Nella nostra lezione di fraudologia stiamo parlando di Gregor MacGregor, l'uomo che pensò di arricchirsi autodichiarandosi cacicco di Poyais, un'inesistente nazione dell'America centrale da lui inventata. Siamo nel 1820. Il cacicco MacGregor dedica all'ideazione fantastica del suo tempo molte energie. Immagina che abbia un parlamento tricamerale, una costituzione liberale, una banca centrale e un esercito di cui disegna divise, decorazioni e ammenicoli vari. Finirà pure per scrivere un libro, una sorta di guida turistica che descrive le bellezze del regno di Poyais, destinate ai potenziali coloni del territorio oltreoceano. Quelli erano anni di euforia nella borsa di Londra e MacGregor fa stampare bond sul regno di Poyais che vanno letteralmente a ruba. La bellezza esotica della moglie lo aiuta a piazzare i bond presso un pubblico di maschi bianchi di mezza età e allupati. MacGregor non si ferma certo qui, non sarebbe da lui. Organizza la spedizione di potenziali coloni nel territorio centroamericano. Fa stampare in Scozia, nella stessa tipografia che stampa le sterline scozzesi, banconote in dollari di Poyais, carta straccia ovviamente, ma lui la vende in cambio di autentica valuta britannica. L'entusiasmo è tale che MacGregor raccoglie tante sottoscrizioni da poter riempire 7 navi di migranti. Ne fa partire 2, una con 70 e una con 200 aspiranti coloni, in massima parte scozzesi. Nel 1822 il corso dei bond sudamericani, di tutti, anche di quelli autentici, precipita. I forsennati acquisti si trasformano in vendite frenetiche. Ma mentre dopo qualche tempo il corso dei bond della Colombia si riprende, quello dei bond di Poyais rimane, per forza, al 10% del valore nominale. Intanto i migranti sbarcano in un territorio paludoso e ostile, popolato di alligatori, animali pericolosi, rimangono senza cibo né acqua e sotto un sole impietoso. Molti però, nonostante tutto, si rifiutano di credere di essere stati traditi dal cacicco. Intanto fa in tempo ad arrivare un'altra nave, ma le vittime sono almeno 180. Chi può si rifugia negli Stati Uniti o nell'Honduras britannico. Una cinquantina torna indietro. Prima che gli sfortunati e arrabbiati mancati coloni di Poyais ritornino nella madre patria, Gregor MacGregor con la moglie e i figli taglia la corda. Si trasferisce a Parigi. Mentre i giornali britannici descrivono con minuzia lo scandalo e dipingono lo scozzese come un truffatore incallito, MacGregor si lancia nella medesima operazione a Parigi. Scrive una nuova costituzione, trasforma Poyais da regno a repubblica, che è una forma statuale più adatta ai palati francesi, e in ogni caso rimane cacicco. Le autorità francesi però si insospettiscono di fronte a 30 loro cittadini che acquisiscono il passaporto di uno stato che nessuno ha mai sentito nominare. MacGregor a questo punto finisce in carcere e viene processato, però alla fine viene assolto, incredibile, no? Comunque, vista la mala parata, Gregor MacGregor decide di tornare in Venezuela. Nel frattempo muoiono sia la moglie sia Bolivar. Il ministro della difesa venezuelano però è un suo vecchio compagno d'armi e gli restituisce il grado di generale e gli assegna pure una generosa pensione. MacGregor muore 59enne nel 1845 a Caracas. Viene seppellito nella cattedrale con onori militari. Il suo nome tutt'oggi compare tra quelli dei padri della patria. Come ci si può connettere con i Chapter 11? Molti ci scrivono. Beh, allora sicuramente via mail serpentecorallo@radio24.it, ma potete seguirci anche su Facebook alla nostra pagina Chapter 11, scritto Chapter. Chapter è il nome più difficile da pronunciare in radio e noi ce l'abbiamo scelto. 11. Eileme. Poi Twitter, aspetta, no, perché mi suona il telefono. Come ti suona il telefono? Mi suona il telefono, mi stanno telefonando. Instagram, dobbiamo dire. Va bene, dai, vai. Sì, vai. Vabbè, abbiamo anche Instagram. Dai, pronto? Sì. Pronto? Sì, pronto? Pronto, buongiorno, parla con il signor Chapter 11. Sì, cioè saremmo un gruppo musicale, Chapter 11. Sì, che... pronto, buongiorno, signor Chapter. Mi scusi, disturbo, io sono Marzia di Sciura, la polizza sicura. Un servizio innovativo di assicurazione online, RC Auto e Moto per la famiglia, che offre prezzi veramente vantaggiosi. Sì, no, guardi, sto lavorando, cioè noi stiamo lavorando. Tra l'altro, guardi, non è ironia della sorte, noi stiamo proprio facendo una trasmissione per mettere in guardia le persone dalle frodi, come appunto potrebbe essere il caso suo, ecco. No, guardi, assolutamente nessuna frode. Noi veramente abbiamo elaborato questa offerta post lockdown per aiutare le famiglie italiane a ripartire con prezzi veramente concorrenziali. Guarda, veramente un minuto per proporre, per espletarle questa, per esprimerle questa, espletarle, no, ma come che parla? Sì. Per esporle questa offerta che lei troverà davvero, guardi, veramente irripetibile. Io le vorrei sottomettere questa offerta, anzi sottoporre questa offerta. Allora, dopo i primi 6 mesi completamente gratuiti, lei potrà quindi godere dei vantaggi di tutta la sua polizza in totale sicurezza per tutta la sua famiglia senza pagare una lira. Cioè, gratis. Cioè, sì. Mauro, ti sta offrendo una polizza gratis. Sì, certo, no, come sì, no. Sì. Come gratis, no. Poi dal 7° mese, ascolti, signor Chapter, poi lei potrà pagare un prezzo inferiore del 40% costo medio delle polizze, delle polizze calcolate. Senta, ma voi siete nel sito dell'IVAS, siete autorizzati, avete tutte IVAS, le IVAS, no, dell'IVAS, IVASS, no. E siamo anche, facciamo anche parte del circuito dei più famosi portoni online e i portali online. Marzia, noi le auguriamo buon lavoro, per favore. Posso richiamare in un momento più semplice. Mi cerchi nell'anno del mai sicuramente, grazie. Il serpente corallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Stiamo arrivando in fondo alla prima puntata di questa edizione Serpente Corallo 2020, un'edizione un po' particolare, appunto molto tecnologica. Infatti, Marco, hai sentito, abbiamo anche questo assistente Alexo, l'assistente con Nexo, quindi siamo molto computerizzati. Anzi, non so, gli facciamo una domanda ad Alexo? Fagli qualsiasi domanda, guarda, lui sa tutto. Dici? Sì, vai tranquillo, prova, fai l'esperimento. Alexo, come si scrive Chapter 11? Per domani a Viterbo è previsto tempo parzialmente nuvoloso. Ecco, forse c'è ancora qualcosa da sistemare. Va bene. Comunque, niente. Va bene. Siamo in conference call, ovviamente. Facciamo uno scherzo telefonico. No, non facciamo uno scherzo telefonico. Allora, parliamo di scherzi telefonici. No, facciamo facciamo una cosa... telefonata sugli scherzi. No, facciamo una cosa diversa. Cosa è successo il 1° aprile? Esattamente. Perché, guarda, io voglio incastonare questo passaggio in una nuova rubrica per la quale ho anche fatto realizzare una sigla apposita. La sigla apposita della rubrica è Enti Serpenti, cioè ci sono delle volte in cui il serpente corallo si annida nella pubblica amministrazione, nella normativa, nel fisco. Nel fisco, beh, notoriamente è un rettilario. Ecco, questa rubrica Enti Serpenti ogni volta la vogliamo dedicare in questa estate 2020 a una corallata della pubblica amministrazione. E adesso ne ho una, guarda, mandiamo la sigla. Eccoti una canzone di Chapter 11. Ecco, no, Alexo. Fuori controllo, Alexo. Enti Serpenti. Allora, per Enti Serpenti abbiamo disturbato un collega serissimo e molto bravo anche, mi permetto di dire, Davide Colombo del Sole 24 Ore. Buongiorno, Davide. Buongiorno a voi. Grazie, grazie di aver accettato il nostro invito. Noi, come vedi, celiamo, scherziamo, ma poi in realtà diciamo anche cose molto serie. Allora, l'ente serpente, come annunciava Marco poc'anzi, è questa vicenda un po' incresciosa del primo aprile. Cioè il primo aprile, io riassumo malamente, che è successo? Che tutti, molti insomma, volevano arrivare a questa provvidenza, a questa indennità dei 600 euro, si sono collegati col sito dell'INPS anche nottetempo, ma poi durante la mattinata hanno cominciato a uscire proprio così a casaccio dati personali dei richiedenti, di quelli che avevano già fatto la richiesta, e diciamo che tutta l'operazione si è un pochino complicata. Si è parlato di hacker, si è parlato insomma, e poi c'era questo termine che è venuto fuori, che abbiamo imparato, però tu mi devi aiutare perché io non mi ricordo più neanche bene come si pronuncia. Come si pronuncia? Come si pronuncia? Forse data break? Data breach. Ecco, ma lì poi cos'è successo effettivamente? Perché non si è mai capito. Ma allora è successo che diciamo il giorno dell'avvio, diciamo, della raccolta delle domande per il bonus da 600 euro per i lavoratori autonomi, quindi una platea di lavoratori che non aveva mai avuto accesso a prestazioni di questo tipo, di assistenza immediata monetaria, un trasferimento monetario di 600 euro, ha iniziato a fare ad accedere al sito dell'INPS, il quale fino alle 13, diciamo, del primo aprile è funzionato con rallentamenti in qualche modo, ma è riuscito a raccogliere, a registrare fino a quasi 340.000 domande. Dopodiché, appunto, verso le 13 il blocco del sito, dell'operatività del sito, che praticamente è rimasta fino alla mattina successiva. Il presidente Tridico ha denunciato un attacco hacker multiplo, ed è un attacco hacker che effettivamente poi nei giorni scorsi è stato confermato dalla Polizia Postale e tramite un centro di rilevamento nazionale che... Quindi ci fu effettivamente un serpente corallo che però non era, come dire, gestito dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ma era un serpente corallo che si era insinuato all'interno del sito dell'INPS. Diciamo che c'è stato senz'altro una insinuazione hacker con una modalità di invio di alcune centinaia di false domande di accesso contemporanee da alcuni siti che sono stati effettivamente individuati da questo Centro Nazionale per il Contrasto dei Crimini Informatici della Polizia Postale. Diciamo anche che è un serpente a corallo a più variabili quello che si è insinuato nell'INPS, perché quando è stato deciso con il decreto Cura Italia di attivare una serie di nuove indennità, di tutela, di indennità, 16 nuove prestazioni per una platea di 11 milioni e mezzo di soggetti, più di 10 miliardi di extra spesa da erogare nel giro di un mese, evidentemente si è introdotto una situazione ad alto rischio che effettivamente poi... Diciamo che tu ci stai dicendo elegantemente che un pochino il serpente corallo il legislatore lo ha agevolato, ecco, se uno introduce decine di nuove misure che sono assolutamente inedite, non sono mai state gestite, eccetera, un pochino il serpente corallo, cioè l'incidente, l'ente serpente, verrebbe da dire te lo vai a cercare. Diciamo che una prova del 9 che è andata un po' così è quello che è successo dopo, cioè quando con il decreto rilancio si è deciso di affidare all'Agenzia delle Entrate poi il compito di accreditare 6,2 miliardi di bonus a fondo perduto da 1.000 euro ad artigiani e commercianti senza l'annuncio di un click day, e c'è tempo fino al 24 agosto addirittura per fare questo tipo di domanda, e effettivamente forse con il senno di poi si è compreso che non è possibile immaginare che ogni nuova prestazione che il legislatore decide di mettere in campo debba essere intestata all'INPS. Non è, come dire, da fare l'avvocato dell'INPS, ma insomma c'è anche da tener conto che l'INPS del 2020 ha un quinto circa di personale in meno rispetto a quello che aveva 10 anni fa, e sono più che decuplicate le prestazioni che deve gestire a prescindere dal suo core business, che sono le pensioni. Tra l'altro il primo aprile una era, curiosità, era anche giorno di pagamento. Il pagamento delle pensioni, infatti. Quindi si tratta e quelle di però, grazie al cielo, non hanno avuto esatto, intoppi. Quelle sono andate normalmente. Lisce. Il giorno prima sono state ricevute alcune centinaia di migliaia di certificazioni UNIEMS da parte delle imprese. Cioè ci sono scadenze che di routine INPS gestisce e che hanno come unità di misura il milione di certificazioni di utenze nell'arco di una mezza giornata. Quindi è in questo contesto che si è determinata questa vicenda. Speriamo appunto che questo serpente a doppia faccia, cioè sì, effettivamente c'era un dolo da parte di qualcuno, ma c'era anche forse una piccola colpa da parte del legislatore che ha voluto mettere in campo troppe cose tutte in capo all'INPS. Grazie a Davide Colombo del Sole 24 Ore, collega del Sole 24 Ore, spesso si occupa appunto di pensioni, di previdenza e quindi si è occupato anche di questo data breach del primo aprile. Grazie Davide. Grazie a voi. E adesso, caro Marco, per festeggiare la edizione 2020 del Serpente Corallo... E c'è molto da festeggiare nel 2020. Beh, insomma, lasciamo stare. Ecco. Però per festeggiare ti vorrei introdurre a un lavoro da solista del nostro amico Stefano Elli, che è timido, non vuole parlare, ma lui vuole cantare. E ha scritto delle canzoni molto belle, per conto suo, che noi adesso vi facciamo anche sentire. Anzi, facciamo che ogni puntata ne faremo sentire una proprio così in chiusura. Le canzoni sbagliate perché non fanno ridere, sono belle. Sì. E allora non sono tanto sbagliate. Questa qui si chiama Contapassi. Contare i passi verso una barriera, una scogliera di passi, fallo di passi e pezzi da passare. Passi da ricordare, passi da fare, passi da evitare. Il mondo è pieno di passi, che se non passi quel che devi fare, tocca ricominciare. Sono 7 e mezzo i passi di una porta, quella che devo parare. Soltanto 7, a me pare più corta. Ma non è regolare. Non sento più l'appoggio dei miei passi, non sento terra da calpestare. Sono pesanti come dei massi, però non fanno rumore. Siamo ai saluti finali, ma Marco, ho una notizia pazzesca. Sei pronto? Non lo so. Ho trovato Stefano Elli. Stefano, ma dove eri? Ero, stavo cercando di rompere il diaframma di Teams. È quella piattaforma dove fanno tutte queste riunioni, tutti quanti. C'è la riunione delle 15, la riunione delle 19, la riunione delle 11. Io non riesco mai perché il Teams è difficile. Il Teams è complicato. Vabbè, ma puoi anche cambiare piattaforma. Allora, siamo in chiusura. Le musiche sono composte o eseguite o ideate con Filippo Bentivoglio, Mattia Bertani e Alessandro Esposti. Alessandro Marzomagno, che è il nostro docente di fraudologia, ve l'abbiamo detto, in realtà è un giornalista, è un autore di libri di storia, persona serissima, non quando partecipa al Serpente Corallo. No, vabbè, l'ultimo libro è edito da La Terza e si intitola La splendida Venezia 1499-1509. Grazie poi alla voce del call center corallesco, che è della collega Alessia Tripodi del Sole 24 Ore. Cari ragazzi, avete qualche cos'altro da aggiungere? Se no, torniamo la prossima settimana. Io vorrei salutare anche Alexo. Alexo, vuoi dire qualcosa agli ascoltatori? Finché non mi connetti a internet, posso dirti solo: connettimi a internet. Ecco. Connettimi a internet. Vabbè, niente. Va bene. Alexo, dobbiamo tararlo un po' meglio. Approfittiamo di questa pausa. Torniamo settimana prossima con una nuova puntata del Serpente Corallo. Truffe ne abbiamo sempre e cerchiamo di sistemare anche questo signore qua. Scriveteci se volete. serpentecorallo@radio24.it. E come sempre, stay angry. Stay foolish. Stay chapter. Ma quando sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quando sei bello, serpente corallo.